Io sono segnato i punti e visto che siamo anche avanti, solo vorrei cominciare dicendo che partendo da quasi una battuta crociata, croce, uno si può guardare un'opera da molti punti di vista, ma uno bisogna vedere se l'opera nel suo contesto, nel suo contesto, tiene quanto agli assunti, quanto alle argomentazioni e quanto al metodo della croce. Da questo punto di vista, io sono un po' più lasciato in causa, quindi nel senso che appunto avendo seguito questo lavoro non posso che autoassolvermi, come questo devo concedere. Quello che vorrei invece notare è che la cornice, cioè l'Istituto Storico di Croce Manico, nel quale è nato questo lavoro, come luogo di ricerca e come luogo dove si lavora per approfondire il livello di intervento sul vasto. Già è stato ricordato un precedente intervento metodologico che ha fatto Cecilia Nicola nel comune sulle pastorali con l'interpretazione dei dati, dove mette in evidenza il travaglio della sua ricerca, e quindi io da questo punto di vista mi invito semplicemente a fare un giudizio che non dire nulla di più. Vorrei invece toccare il problema del tipo di lavoro che non è fatto. Io mi ero segnato a partire da Molinari 58, Prodi, e poi via via andando avanti, ero arrivato a vedere che in fondo il lavoro precedente, questo per molti aspetti simile, per molti aspetti diverso, era quello di Daniele Danani, pubblicato peraltro proprio dal nostro stesso istituto. E mi sono chiesto che tipo di differenza c'è fra i due lavori, il lavoro più recente, dal punto di vista del metodo, dell'approccio. Sono due approcci in qualche modo speculari. In che senso? Nel senso che il filamento Terra Veneta prendeva una serie di grandi questioni, di grandi problemi di ordine generale e in queste letture incanalava i dati. Qui il processo, passato in questa semplificazione molto banale, è opposto. Cioè si parte radicalmente da una realtà e ci si lascia interpellare da questa realtà per vedere che cosa succede. Direi che da una parte c'è un meccanismo di disciplinamento non detto in questo libro, è un disciplinamento inverato nel rapporto fra società e istituzioni, un dialogo molto fitto. Già mi ha preceduto, ha messo in evidenza una serie di aspetti, direi che in fondo uno potrebbe leggere le singole pagine anche come dettante microstorie, ma il tessuto connettivo non è quello delle microstorie che passano da una parte all'altra, quanto quello dei comportamenti visti attraverso le istituzioni. Quindi direi da questo punto di vista la prima osservazione. La seconda osservazione è l'atto stesso della università. Già qualcun altro l'ha messo in evidenza, ma non dobbiamo dimenticare che il fatto stesso della visita è un fatto rilevante, un fatto importante, è un atto di governo che tiene conto però per forza di questa realtà trentina. È una realtà tedesca, non dobbiamo dimenticare, è una realtà che il Trento fa parte completamente dell'impero, e questo fatto trova conferma anche nella stessa giacitura dei materiali artistici, perché appunto il livello dei vari consigli materiale si trova sia nell'archivio di Curia, nell'archivio ordinariato, ma anche presso l'archivio del Principato. Non è casuale questa duplice tacitura, questo doppio livello, questa intersecazione dei rapporti politico-istituzionali da una parte, civili e religiosi, che è tipica di tutti i principali vescovi dell'impero. Se non ha un altro nome, può trovare forse la stessa realtà. Non so se ho frasi, sicuramente andare a e con questa specificità ce l'ha una grande specificità, che è la realtà del capitolo. Il capitolo è importante in molte grandi diocesi italiane, ma nel territorio tedesco è ancora, se possibile, più importante di quanto non lo sia altrove. E da questo punto di vista la prosopografia, quindi faceva riferimento a questa voce, la prosopografia dei vari canonici si collega da una parte alla tradizione di studi tedesca, ma è anche una sollecitazione che anche in Italia sta avvertendo. Tolini sta facendo fare la serie di lavori proprio in questa direzione, perché in fondo se invece è cominciato molto prima, abbiamo contato forse noi, ma è un tipo di intervento e di lavoro che permette di andare avanti anche in quel determinato pure, permette di vedere strategie familiari, permette di vedere curriculum, permette di vedere un sacco di materiale. Però la visita, dicevo, è un atto importante per lo stesso, che è fatto anche di gesti. È un atto in qualche modo straordinario, perché non è fatta ordinariamente, è un atto straordinario di gestione pastorale. E qui i livelli sono vari e si intersecano fra di loro, perché è un atto sacramentale, c'è la manifestazione della crisi, è un atto di magistero, è un atto giudiziario, è un atto materiale, ci sono i costi della visita, ci sono le spese da pagare, ci sono anche questi elementi molto banali, sui quali spesso l'attenzione dei visitatori si appunta e spesso ci sono lamentele da più parti, perché troppi visitatori gravano sulle finanze locali. È un atto preparato da una serie di domande e mi è parsa molto interessante l'attenzione prestata dalla Lua al questionario. Al questionario di visita, già in precedenza è stato studiato il questionario CLES, il confronto peraltro fra il questionario CLES e il questionario Manuzzo presenta degli aspetti interessanti, si potrebbe anche andare avanti e vedere anche la ricostruzione poi di questionari, anche questionari che noi troviamo all'interno dell'impero. Penso ad esempio a la formula di formazione di Carlo V ad Augsburg nel 48, porta guarda caso a tipo 20, punto di visitazione. Potremmo andare poi a Köln o più vicino a noi, a Salzburg, anche questionario del 1569, perché è il riferimento all'area tedesca, oltre che all'area italiana, direi che è in qualche modo imprescindibile, anche perché con il questionario ci sono le istruzioni per i visitatori. Un elemento di modernità, se volete, la formulazione. La standardizzazione che a partire dal secondo 500 diventa sempre più complessa, arriveremo a formulare di Benedetto XIII contenuti in 60 e passa pagine, fitte, fitte e così via. Si comincia a articolare il materiale attraverso punti predeterminati, una scrittura, una raccolta dei materiali e sistematiche e non più puramente e così in qualche modo casuale come nel passato. Un altro punto che si connette a questo e mi pare una delle novità dal punto di vista istituzionale è l'individuazione della congregatio spiritualis qui aperto. È una scoperta perché con questa si entra dentro l'aspetto del dovere pastorale connesso alla visita e non al diritto di visita come era nel Medioevo. Si entra nel campo del spirituale, non è solo una visita materiale, è una visita che guarda allo spirituale e questa congregatio spiritualis è una scoperta perché abbiamo detto, è anche un invito a cercare di vedere ciò che c'è davanti agli occhi di tutti, ma che però non si vede, finché qualcuno non lo vede per la prima volta, perché questo si può ritrovare tranquillamente nell'andamento di Carlo Borromeo, tant'è vero che l'archivio delle visite era detto archivio spirituale, non casualmente. Si trova nella trattatistica seguente, il vescovo Lucini, il Fenace, il vescovo Lucini Fermo, metà 600, nella divinità e ufficio dei vescovi, tratta esplicitamente dell'archivio delle visite spirituali e della congregazione spirituale, fino alla trattatistica di Crispino. Crispino dedica tutte pagine alla questione della congregazione spirituale, cioè quella congregazione che intervenne per la risoluzione delle questioni emerse durante la visita e elabora anche i decreti di visita. E comunque è da inquadrarsi nelle istituzioni diocesane, formata ad hoc naturalmente, non è permanente, ma appunto, come spesso succede, non permanente diventa caduco finché non se ne perde le traccia e non se ne perde le memoria. Certo, poi ci saranno anche congregazioni di cose spirituali che emergono nel corso del 600. L'altro punto che mi pare altrettanto importante, visto ho sentito un pensiero che mi piaceva molto, che ha fatto andare lo stesso Monsignor Roger, è il problema della comunità. Qui è vero che ci sono stati spesso cenni alle comunità viste attraverso le visite pastorali o le comunità come un punto di riferimento da tenere presente quando si affronta la questione della visita. Solo che appunto gli attori sociali nella zona concreta, nelle loro relazioni, anche nelle strategie, non sono mai stati esaminati organicamente. E lo stesso discorso di prima sulla congregazione spirituale. Se andiamo a estendere il discorso da Trento a tutta una serie di realtà italiane, troviamo problemi simili. Sì, troviamo Milano, faccio un esempio banalissimo, troviamo Brescia, li troviamo a Rimini, li troviamo a Napoli, li troviamo a Roma. E non è tanto un fatto che emerge dalla presenza dei gravami che vengono consegnati dalle comunità, che sono poi in fondo questi gravamina hanno altri nomi, sono in altre forme, saranno lettere, sono laici interrogati come testimoni, ma li ritroviamo estesi in una larga fetta delle realtà italiane, laddove le visite sono strutturate in maniera abbastanza ampia. Addirittura, se noi andiamo a vedere nella vicina Verona, troviamo che ci sono dei settori in cui si conservano questi materiali. Naturalmente, spostandosi avanti nel tempo, la cosa avrà altri risvolti, avrà altri riflessi. Però, anche questo è un tutto a una questione nuova e diversa alla stessa fonte visitata. Per quanto riguarda poi un altro punto toccato la complessità del rapporto tra denuncia e denuncia. Se uno dovesse dichiarare aver preso di petto una questione che, guardate, ognuno che si occupa di vita pastorale generalmente evita, perché è una materia rognosa, spinosa, antipatica, odiosa e complicata. La complicazione ulteriore è data dal fatto che le figure specifiche nella seconda nella del Cinquecento ancora non sono ben definite, e non solo, non sono ben definite anche per realtà italiana. Allora, questo tema è un tema che da questo libro parte con una nuova carica, se volete, anche per quanto riguarda i rapporti fra centro e periferia. Perché i rapporti tra centro e periferia, che tanto sono nati giustamente da Paolo Conti, che è di Marco una decina di anni fa, ma li ha teorizzati per primo, sono i rapporti che invitano ad andare a fondo nella lettura dei materiali. Certo, se uno avesse tempo, se uno avesse molto tempo a disposizione, potrebbe anche fare collaborazioni estremamente comode di andare a investigare tutti i vari possibili archivi, mettere insieme tutta la massa delle informazioni e poi riuscire a ricavare un quadro che è il più completo possibile. Ma anche quando si tenga conto di alcune informazioni, in un certo modo, quindi le sollecitazioni per riconoscere questa realtà di periferie che sono deboli. Periferia una parte di Trento rispetto al capitolo, è periferia una parte della diocesi rispetto al capitolo, sono periferie alcuni sacerdoti o chierici rispetto ai loro pievani, una serie di centri molteplici che però hanno una loro gerarchizzazione. E da questo libro io credo che almeno i livelli della gerarchizzazione, se volete, della normalizzazione, o per usare un termine che ha già successo, di disciplinamento, e di fondo vengono fuori. È vero, da questo punto di vista, una sollecitazione che pone non solo la possibilità, è importante che la sento meglio, e cioè il fatto che quando ci si perpetua su una realtà visibile, un livello visibile, che è quello delle istituzioni, non si può dimenticare che quelle istituzioni hanno la loro matrice e hanno una loro spinta, che ha un peso. Questo peso è difficilmente quantificabile e non è neanche esaminabile, perché devo dire, non è da mettere fra parole. È un peso che però merita che voi affronti, come vorrebbe dire, appunto la parte tedesca della diocesi. La realtà diocesana è vera, è complessa, è anche la parte del potere, perché il potere del conte Tirolo è un potere, come è stato ricordato, di intervento decisivo, si permette di concedere la collezione, ma si permette di rinunciare diritti sopra quella chiesa, così come altrove, all'interno dell'impero, penso ad esempio in Baviera, le chiese sono nella lunghissima parte di casi, cioè sottoposte al dominio del tutto.